BGZ, Petty Beat, Underground, Noir City, Special Star, un mondo a parte, io nostalgico, antichi zappi in 3D, mi ricordo i primi nastri dei Run DMC. Ascoltavo questo suono e sono ancora qui. Funky Beastie Boys, Curtis Blow, per me quello è hip hop, ci si diverte. Andando in giro con bobo le facce coperte, tag sulle scarpe, suona l'allarme, le strade del mondo sono in fiamme. C'è una nuova cosa e non si sa che cosa, e non si sa se vecchia o nuova questa cosa. Nel radione Houdini e linguette giganti, avere 12 anni, il poster di della Soul sul muro, tag sulla spalliera che accompagnano al letto, beat electro e schiena carta da petro. Scarsi fra Isaac Hayes e Barry White rivivono sul loop, appiccicando nastri, Raven Play, solchi, no Dolby, no hit, solo colpi, non reggae, solo soul, jazz e funk, altri tempi. E in qualche casa era rimasto qualche giradischi e qualche disco, e qualcuno rovinava la puntina, ma era ovvio ai primi tentativi, 33-45 mixer primitivi. C'era una volta un rapper e un DJ con i dischi degli altri, e con le mani si gestivano i suoni. Ora è tutto sguardi e pantaloni più larghi, l'hip hop per me un ricordo, per te un viaggio in un mondo ormai morto. Pianeta roccia chiama chi mi ama, in pratica chi adora l'hip hop, break, scratch, funk. Come all'inizio, avere un obiettivo, il discorso è musica, son stufo di ripeterlo, lo sottolineo. Ho preparato un mix di anni 60, funk e musica varia, con un bicchiere in mano ed il mio amico a fianco. Ovviamente tutto live, una serata ridere come agli albori. Resto fuori, fanzine, scarpe, bombole, correre 1978, 1990, 2006. Vedere il proprio nome sopra il muro, lettere bianche col contorno nero, il mangianastri in mano, sta suonando Eric Biera Kim, nel mentre sto pensando di rubare un altro break a Simon Harris. Se voglio essere un b-boy sarò un b-boy, e pugno dopo pugno come un principe diventerò pazzo. Vedo una nave da crociera sul lago, musica dotta che si fonde con un beat ignorante, accorgimenti rock, Herbie Hancock, G come cucchiaio, batteria, no beat, no pentole, mestoli, no Barbie, sì, sexy, sexy, Curtis Mayfield come i frammenti, autunno liscio, te lo ricordi? Ehi, il nuovo disco che sa di vecchio.